Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, oppure digitate su Google Roberto Galullo e troverete automaticamente anche il mio blog, blog nel quale ultimamente ho parlato spesso, spessissimo di Lamezia Terme, così come ho fatto anche recentemente con alcune inchieste sul Quotidiano. E perché oggi parliamo di questa città? Perché è una città meravigliosa, è la capitale mancata della Calabria, dico io, perché ha tutto, a partire dal calore della gente, per essere il capoluogo di regione, ma è una città vittima di abusi continuamente. Abusi che provengono, nemmeno a dirlo, dalla criminalità organizzata, dove cosche sanguinarie si contrappongono purtroppo ormai da decenni su quel territorio. Ma ne parliamo oggi perché domani ci sarà la visita a Lamezia, appunto, del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un segnale importantissimo. Lo Stato presente con la più alta carica, proprio per dire alla Lamezia e alla Calabria che vuole reagire, lo Stato quando vuole c'è e non fa soltanto parata. Lamezia che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e lo sentiremo ora, ha avuto anche alcuni arresti e soprattutto un processo importantissimo che si sta svolgendo contro una cosca e contro degli estorsori che hanno un nome e un cognome. Per parlare di questo appuntamento di domani e di una città che alza e vuole alzare la testa, ho il piacere di dare il buongiorno al sindaco Gianni Speranza. Buongiorno Gianni. Buongiorno, salve, buongiorno e saluto tutti i nostri ascoltatori. E ovviamente ne parliamo anche con chi ha fatto alzare la testa negli anni 90 ai commercianti taglieggiati della Sicilia, vale a dire con Tano Grasso, che oggi è presidente onorario delle federazioni anti-racket. Buongiorno Grasso. Buongiorno a voi tutti. Allora Speranza, partiamo da lei. Domani arriva il Presidente della Repubblica e che Lamezia gli facciamo trovare, sindaco? Domani è una giornata di festa perché il Presidente della Repubblica che viene a Lamezia viene in occasione del 40° anniversario della fondazione di Lamezia. Lamezia è una città giovane, i tre ex comuni si sono unificati nel 68 e noi abbiamo invitato il Presidente della Repubblica da subito, da quando è stato eletto, proprio perché volevamo che suggellasse l'anniversario della nostra fondazione e che quindi questa festa per i 40 anni di Lamezia fosse anche il momento di una impostazione di svolta, perché la città oggi sta vivendo un momento di grande riscatto e di grande passione civile. La visita del Presidente della Repubblica dà slancio, dà forza a tutti i cittadini e dà quell'immagine di Lamezia all'Italia che noi cerchiamo di dare da sempre, cioè Lamezia è un pezzo dell'Italia di oggi vivace, vitale, che vuole sconfiggere la criminalità organizzata e che attraverso questa sconfitta può aprire la strada di quella sua missione di sviluppo, di città nuova al centro della regione, di valorizzazione delle risorse a cui lei faceva riferimento all'inizio. Ecco, fermiamoci un attimo, sindaco, perché ha fatto bene a sottolineare il risveglio. Dicevo prima, numerosi arresti nelle ultime settimane, ma soprattutto un processo che è stato definito anche un processo storico, perché per la prima volta un piccolo imprenditore, un imprenditore che ha una rivendita di autoricambi, ha puntato il dito contro alcune persone accusate di averlo obbligato a pagare un pizzo, a pagare per le attività che svolgeva. Per la prima volta quel dito si è levato contro queste persone e il clima che lo ha accolto è stato di festa, possiamo dirlo, sicuramente per la società civile, ma anche di tensione, con voci che ho riportato anche sul quotidiano di possibili attentati nei confronti dei magistrati e dei giudici che stanno conducendo questo processo. Allora Grasso, quanto è stato importante per Lamezia e per la Calabria quel dito di Rocco Mangiardi contro Pasquale Giampà e quindi quel dito che lo accusa di essere lui l'estorsore nei confronti della sua attività commerciale? Guardi, il dato più rilevante è che il coraggio di Rocco Mangiardi è espressione di un movimento fatto in primo luogo da altri operatori economici, da altri commercianti, da altri piccoli industriali, ed è un movimento di forte collaborazione con le istituzioni. Rocco Mangiardi non è un caso isolato nella realtà di Lamezia Terme, ma è l'espressione più avanzata di un movimento che a freddo, voglio dire a freddo, lontano dai clamori della cronaca, con il sostegno del sindaco Speranza, abbiamo costruito a Lamezia Terme, che sta dando questo importante risultato. Assolutamente, questo è importantissimo. Ricordiamo anche che in questa città stanno per confluire decine e decine di milioni di euro con un progetto molto discusso, e ricordiamo però anche che questa città ha sempre attirato investimenti a un porto vicino, all'autostrada, a un aeroporto, insomma è una città viva che proprio per questo è nelle mire della criminalità organizzata. Dicevo, il progetto molto molto discusso, e se ne può trovare traccia anche nell'ordinanza della Procura di Salerno, della cosiddetta guerra intestina tra Procura di Salerno e Procura di Catanzaro. Il progetto è il Tecne Sud, così si chiama. Allora, sindaco Speranza, per evitare che i soldi vadano a finire nelle mani dei soliti noti e che quindi possono esserci ancora scempi e abusi contro la Lamezia che produce ed è onesta, che cosa sta facendo la sua amministrazione comunale? La mia amministrazione è nata proprio per fare in modo che le risorse vadano per lo sviluppo, che gli imprenditori di Lamezia possano lavorare senza taglieggiamenti e senza obblighi dei mafiosi, dei criminali o dei malviventi. E devo ringraziare da questo punto di vista, guardi, molto Tano Grasso. Sono veramente felice che lei abbia fatto trovare l'onorevole Tano Grasso in trasmissione con me, perché la nascita di un'associazione anti-racket in questa città è un fattore di democrazia e di sviluppo, perché ha significato proprio il fatto che nessuno è più sovraesposto da solo, ma che c'è una rete di relazioni positive e che c'è quindi la possibilità, oggi c'è un clima per cui oggi gli imprenditori possono parlare. E quel dito di Rocco Mangiardi verso Giampà nel tribunale, era imputato Giampà, c'era lì, non è il dito di Rocco Mangiardi, è il dito di tutti noi verso chi ha fatto del male, fa del male e impedisce lo sviluppo della nostra città. Quindi non c'è una persona, c'è una comunità che reagisce così, e c'è una comunità che vuole trovare la possibilità di mettersi sulla strada di valorizzare le eccellenze, i talenti, le possibilità grosse che ha da questo punto di vista. E questo è, sacrosanto. Questo è sacrosanto, e ricordiamo anche che il comune si è costituito parte civile. Ricordiamo anche che il comune di Lamezia Terme nell'agosto del 2008 si è visto riconoscere un risarcimento di 5 milioni di euro nel corso di un altro processo nel quale si era anche lì costituito parte civile, perché la criminalità organizzata aveva danneggiato l'immagine di questa città, di questa collettività amministrata che vuole continuare ad alzare la testa. Nel ringraziare il sindaco Speranza per il suo intervento e nell'augurargli una buona giornata domani in compagnia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, chiedo e ringrazio nel frattempo a Tano Grasso. Chiedo che cosa si aspetta adesso dalle prossime tappe del processo. È evidente che questo percorso è un percorso solo all'inizio. Rocco Mangiardi e l'associazione rappresentano una piccolissima parte del mondo imprenditoriale calabrese. Io mi auguro che anche col sostegno del Presidente domani questo modello diventi un punto di riferimento per la stragrande maggioranza degli imprenditori calabresi che invece oggi pagano pacificamente e in silenzio il pizzo e ne accettano i condizionamenti dell'Andrangheta. Assolutamente, ed allora per saperne di più e nel ringraziare Tano Grasso rimando al mio blog robertogalullo.blog.ilsole24ore.com oppure sull'home page del quotidiano trovate Guardie o Ladri e troverete molti pezzi dedicati proprio alle tematiche di cui ora abbiamo parlato con i nostri ospiti. Grazie in studio a Laura Fagin e in regia Fabio Cantadori e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.